fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Buonasera ragazzi, noi siamo in diretta con Resto Radio Convento e sono in compagnia di... Alessandro, da Cornate d'Adda. E qua con me ho la fantastica Valentina. Fantastico Alessandro, cosa mi dici di bello stasera? È stata una serata eccezionale, ci sono migliaia di addio celibato, addio nubilato. È una serata fantastica, una serata dove si balla e... Ma la cosa, io sono curiosa Alessandro, scusami, perché ho girato un po' lì fuori, però forse tu hai avuto più contatto con le persone, no? Contatto, sì. Sì, cioè, nel senso, hai avuto più modo di conoscerle. Certo. Ma c'è qualcuno, diciamo, di matto, che ti è rimasto impresso al di fuori della ragazza con la maglia arancione? Allora, ci sono delle fantastiche suore, probabilmente in preda al raptus del nome convento, sono arrivate vestite da suore. Da suora, sì. E poi ci sono naturalmente i miei amici che sono veramente delle persone pazze, direi. Sì, pazze, il termine più giusto. In quanti ne eravate più o meno? Eravamo in 27, una tavolata da 27. Ma, allora eravate sopra in galleria. Galleria, sì. Ho capito, vi ho visto. Che ogni volta che passava una donna c'era Brava, eravamo noi! Erano loro i matti che urlavano. Sì, non sì. Potevano vedere passare una ragazza, una donna che facevano su di matti. Ma come si chiama lo sposo? Lo sposo si chiama Mattia, la sposa si chiama Ilaria. La sposa Ilaria è a casa che dorme. Lo sposo Mattia non so dov'è. È in giro a per... mezza. Questa non è una cosa tanto positiva per la Ilaria, quello sì. Dovevate tenerlo un po' sott'occhio. Ma anche lo sposo da tenere sott'occhio noi. Ma stamattina gli avete combinato qualcosa, lo sposo? Diciamo che sono circa 48 ore che siamo in giro tra Dublino e Desenzano. Dublino, ieri sera eravamo a Temple Bar a Dublino. Mamma mia. Non abbiamo preso l'albergo, abbiamo dormito in aeroporto e diciamo che non dormiamo da un po' di ore. Avete fatto proprio H24, mamma mia. Sì, anche 48. Il corpo regge? E a una certa età non regge più. Però vabbè, ci siamo. Però io ti credo che ancora che regge. Vuol dire che la certa età ancora non ci sei arrivato. Va bene. Grazie mille per il complimento. Scusa, io se arrivo a una certa età e non riesco a reggere la sonnolenza, vuol dire che è una certa età. Tu no. E c'è qualcuno che ti ha colpito qui fuori, Alessandro? Allora, io le vedo quasi tutte uguali, non è che mi convincono molto. Allora, c'è. No, sinceramente non c'è nessuno che mi ha colpito in particolare, ma c'è tanta bella gente e come sempre qua al convento c'è tanta bella gente. Però in particolare nessuno ha colpito il 39enne Alessandro. No, nessuno. Ma come bisogna fare? Dobbiamo aprire un cupido qui dentro. Non c'è bisogno. No. Il karaoke resta sempre però perfetto, il karaoke del convento. Che canzone hai cantato? Fammi sentire. Allora, in passato ho cantato Perdere l'amore, ho cantato altre canzoni. Stasera cosa hai cantato? Non sono ancora andato. Stasera ci devi andare. È sempre pieno. Ma c'è una fila in tremenda lì dentro, mamma mia. Ragazzi, è tremenda la fila del karaoke. Sì, eppure sì, io sì, non sì. Mi spiego, vengono qui per ballare? No, vengono per cantare. Karaoke. Si danno su perché devono cantare, fanno la fila tremenda. Ma la scusa per accoppiare vari tavoli. Anch'io l'ho notato, hai ragione Alessandro. Che vanno lì dentro, si prendono le spose, gli sposi e si fa l'accoppiamento. Diciamo che il karaoke fa community. accoppia gli sposi e le spose. Dimmi. È chiuso, signorina, mi dispiace. Puoi provare a tirare quanto vuoi la porta. È chiusa. Bisogna tirare. Tira. E va bene, dai Alessandro, mi sa che c'era la ragazza che ti aspettava per la sigaretta, le ragazze che vogliono entrare, io ti lascio. Ti ringrazio una Valentina, sei serata. Stata gentilissima. Grazie a te. È stata splendida. Adesso ti apro. Ma vanno di fretta, io vado a fumare la sigaretta. Va bene. Mia, ma quanto sono maleducata. Lascia stare, maleducata. Ciao. Ragazze, Ciao Valentina, buonanotte. Ciao, grazie anche a te, ciao.